settembre porta la malinconia che ora soffia in questa vita mia. Ciò che sente il cuore adesso io te lo dirò, a costo di pentirmene lo so. Quello che mi manca forse è solo fantasia, forse è tutta un'invenzione mia. Ma di questa nostra storia cosa ne farò? Esisterà tra quello che non ho. Nei tuoi occhi non mi rivedrai, con il tempo piano passerai. Come il bacio alla bocca per dirmi che sapore hai, come l'aria che tocca il viso e che non stanca mai, come un fiore che sboccia sopra il prato della vita e che giorno dopo giorno fiorirà. L'anima si è arresa e si veste di un addio, forse è questo qui il destino mio. Ma di accontentarmi adesso io non riuscirò, esisterai tra quello che non ho. Nei suoi occhi non ti rivedrai, con il tempo piano passerai. Come il bacio alla bocca per dirmi che sapore ha, come l'aria che tocca il viso e che non stanca mai, come un fiore che sboccia sopra il prato della vita e che giorno dopo giorno fiorirà. Questo è il senso della vita. È il senso della vita. Il senso della vita.